Che differenza c'è tra uno smartphone e un telefono? Beh, insomma, sicuramente uno smartphone è quello che viene chiamato un dispositivo evoluto, più multimediale, è dotato di un sistema operativo, solitamente ha più memoria, un display più grande. Oggi è veramente difficile farne una categoria, però lo smartphone è comunque vissuto come un telefono che fa più cose oggi e soprattutto un telefono su cui si può caricare software che non viene dato di base nella confezione. Sì, molto probabilmente nel futuro saranno tutti smartphone. Con buona probabilità sì. Oggi, così a spanne, su 100 telefoni, quanti sono smartphone e quanti sono invece telefoni normali con, sì, un sistema operativo, ma molto rudimentale, un vecchio sistema operativo? E poi anche qui bisogna intendersi in quali quanto categorie... Quanto rudimentale è, beh, certo. Esatto, però direi che un 15% è una buona stima, sì. Mm. Senti, questo è un telefono che è arrivato alla seconda versione. Molto sinteticamente, quali sono le novità principali? Ma dunque, esteticamente, per chi comunque ha visto il primo, cambia poco o nulla. La differenza è che ci sarà anche una versione bianca, un po' alla moda dell'iPod. In realtà le vere differenze sono che è 3G, quindi sfrutterà le reti di terza generazione, in particolare la rete HSDPA, quindi andrà più forte soprattutto in internet, scaricherà file con maggiore velocità e potrà interagire con maggiore velocità. Poi al chip GPS, e quindi in questo senso potrà essere utilizzato come navigatore. Noi sappiamo tra l'altro che al di là di come funzionerà questo iPhone, ci sono dei produttori, cosiddetti produttori di terze parti, che già sono al lavoro per fare software, quelli che insomma di cui sentiamo parlare tutti i giorni e che faranno dei software proprio per il sistema operativo dell'iPhone. Come ho detto, sarà anche bianco, le versioni saranno due, da 8 giga e da 16 giga, e come è stato dichiarato dall'azienda avrà più autonomia, quindi la batteria durerà di più. A proposito di batteria, c'è però un problema che non è stato risolto. Beh, tra i problemi diciamo che non sono stati risolti con questa seconda edizione è che la batteria non è removibile, quindi non si può staccare. Questo cosa comporta? Comporta tutto e niente. Se il telefono funziona bene non c'è nessun problema, se la batteria dovesse avere un malfunzionamento non basta buttare via la batteria vecchia e comprarne una nuova, ma bisogna portare il telefono in assistenza perché la batteria non è removibile.